Stefan Merz nasce il 16 dicembre 1896 a Banja Luka in Bosnia da Mavro Merz e Ludmilla Ropert. Il papà di Ivan, che era un ufficiale austriaco e faceva parte dell'esercito austro-ungarico, era di stanza in quella città anche come responsabile della ferrovia militare Banja Luka-Doberlin nella Bosnia occidentale. Come sappiamo, erano gli anni dell'occupazione della Croazia, della Bosnia, eccetera, da parte dell'impero asburgico. Il nostro futuro apostolo fu comunque battezzato il 2 febbraio dell'anno successivo, del 1897. I suoi genitori, anche se cattolici, non erano praticanti. Ivan ebbe comunque un'educazione improntata al rispetto e al dovere verso gli altri. Ne dà testimonianza anche l'esempio della carità che i genitori esercitavano verso i più poveri, e questo sviluppò in lui il senso e l'importanza dell'amore verso il prossimo, in modo particolare chi era più nel bisogno. A Banja Luka frequentò le scuole elementari e il ginnasio, e proprio nel ginnasio ebbe come professore di lingua croata una delle figure più insigne del movimento cattolico negli studenti della scuola, il professor Maraković, che ebbe un'impronta fondamentale, un peso determinante sulla vita spirituale in quel periodo giovane di Ivan. Questo professore era un educatore per vocazione e per dono di Dio, così si definiva egli stesso, ma educava i suoi alunni non soltanto durante le lezioni, ma soprattutto e prima di tutto con l'esempio. Ebbe un ruolo fondamentale nella crescita di Ivan, dicevamo, proprio nell'insegnargli anche ad essere un vero cattolico, a credere, ad avere una fede, a credere in certi ideali, quindi a comportarsi di conseguenza, non soltanto come formalismo, ma andare nel profondo delle cose. Nel 1914, a 18 anni, non per sua scelta ma per volontà dei genitori, entrò nell'Accademia Militare di Wernerstedt, che abbandonò però 3 mesi dopo, disgustato dalla corruzione dell'ambiente. D'accordo con i genitori, lasciò l'Accademia e nel gennaio dell'anno dopo, nel 1915, si iscrisse all'Università di Vienna. Questo periodo, come risulta dal suo diario, un diario preziosissimo nel quale è annotata praticamente tutta la sua vita, come risulta dal diario, è caratterizzato, il periodo di Vienna, da una profonda crisi intellettuale, morale e religiosa. Viene a contatto anche con il pensiero ateo, marxista. Comincia a farsi delle domande, a interrogarsi. È un momento di grande ricerca. E questa sua ricerca, ricerca però del giusto, del bene, dei valori cristiani, lo portano all'Eucaristia. L'Eucaristia diventa per lui un punto fermo. Gesù Eucaristico lo attira sempre di più ed egli desidera riceverlo il più spesso possibile. Il Signore lavora il suo cuore e Ivan comincia a sentirsi spinto verso una perfezione e a percorrere la via della santità. Diventa così sempre più frequente la sua preghiera a Dio e a Maria Santissima perché lo aiutino nelle sue difficoltà spirituali. Lo ricaviamo proprio dalle pagine del suo diario, a Vienna nel 1915, quando scrive: «La mia preghiera si rivolge all'Immacolata, che voglia lei accompagnare ogni mio passo in questa città, che il mio cammino sia sempre diretto verso il bello». E proprio questi mesi di ricerca, anche di crisi interiore, ma di crescita anche, questi mesi segnano per Ivan una grande crescita sotto il profilo spirituale, a tal punto che matura la decisione di fare voto di castità fino al matrimonio. È un'offerta che fa a Gesù. È la festa dell'Immacolata proprio l'8 dicembre del 1915. L'estate precedente gli era stata inoltre notificata la chiamata alle armi, e in attesa della partenza, che avverrà tuttavia solo nel febbraio dell'anno dopo, cioè del 1916, si ferma dai genitori nella città di Banja Luka. E proprio durante questo periodo di riposo che precede la sua partenza per le armi, legge l'imitazione di Cristo, si radica nei propositi di umiltà, ma sente anche il bisogno di approfondire con opere sostanziose la sua cultura religiosa per essere meglio preparato a difendere la sua fede e soprattutto a parteciparla agli altri. Non solo, in questi mesi ancora di più l'Eucaristia diventa il suo centro, il centro della sua vita spirituale. A fine febbraio parte per la guerra e trascorre le prime 8 settimane a Lebring, presso Graz, in Austria, e poi a Slovenska Bistrica. Superato l'esame di ufficiale, viene inviato a Sevzen. Proprio nel diario riferisce la sua esperienza della guerra con gli orrori che l'accompagnavano. Costretto a guardare ogni giorno in faccia la morte, sottoposto ad ogni privazione ed esposto anche a pericoli di ogni genere, matura in se stesso il modo vero, il modo cristiano di guardare il mondo. Proprio a contatto con il dolore, con la sofferenza e con la morte, svaniscono in lui quei dubbi e le esitazioni di un tempo, e si convince che solo i principi cristiani, gli unici validi e degni di essere vissuti, danno all'uomo la forza di sopportare tutta la tragedia della vita. E la figura di Gesù e il suo insegnamento diventano il programma della vita di Ivan. Ormai l'arte e la letteratura, che lo appassionavano tanto, non lo interessano più. Arriviamo nel 1919 e di nuovo a Vienna, studente della facoltà di filosofia. Vediamo come a Vienna lo sforzo ascetico del nostro santo è teso al massimo. Mortificazioni, digiuni, impegno nello studio. La spinta verso l'alto lo accompagna costantemente e la sua comunione e la santa comunione è il suo cibo spirituale quotidiano. Nell'autunno dell'anno successivo, nel 1920, ottiene anche una borsa di studio dalla Francia che gli permette di studiare letterature francese per 2 anni a Parigi, alla Sorbona e all'Istituto Cattolico. E proprio a Parigi raccoglie anche il materiale che gli servirà per la preparazione della tesi di laurea, che discuterà poi invece a Zagabria. Ma oltre agli impegni di studio trova anche tempo per varie attività. Si interessa molto alle organizzazioni cattoliche francesi. Si iscrive alla San Vincenzo, non solo, si assume la cura di una famiglia povera alla periferia di Parigi. Qui i compagni di studio sono ammirati e stupiti per questa sua intensa vita di preghiera e per l'impegno di apostolato che dimostra. Ed è, cari amici, proprio del periodo parigino la sua prima regola di vita, contenente alcuni punti che lui stesso dovette poi mitigare un po' su consiglio del confessore. Si tratta di norme che però denotano la sua volontà di elevarsi nello spirito. Ci sono dei punti che vorrei farvi partecipi. Per esempio, alcuni di questi punti sono: primo, dormire sempre sul pavimento, come mortificazione, come penitenza. Poi fare ogni giorno il bagno con l'acqua fredda. Non mangiare niente di mattina, digiunare ogni venerdì. Evitare di parlare di me stesso, diceva. Mangiare soltanto a pranzo e a cena. Una volta al mese osservare il digiuno assoluto. Donare ai poveri. Non parlare mai delle mie sofferenze. Parlare il meno possibile. Accettare le situazioni sgradevoli. Benedire ogni dolore che mi toccherà soffrire. Interrompere talvolta il sonno per amore di Gesù, e infine accettare con gioia le umiliazioni davanti agli altri. Le pagine del suo diario durante il periodo a Parigi non sono molte, a differenza di quando sarà a Zagabria o quando era a Vienna. Annota di tanto in tanto le cose che più lo colpiscono. Prova per esempio un'immensa gioia quando il papà si comunica dopo 20 anni che non lo faceva più. Scrive: «Il cuore di Gesù ha esaudito le mie preghiere». E aggiunge che si tratta di una vera e propria conversione operata dalla grazia. E scrive ancora: ora resta ancora il pensiero per la mamma. Cuore di Gesù, aiutala. Nello stesso anno, siamo nel 1921, scrive che il dolore agli occhi gli impedisce di scrivere, ma è contento di unire le sue sofferenze a quelle di Gesù. A causa infatti del male agli occhi non può dedicarsi allo studio della letteratura come vorrebbe, come dovrebbe. Questo ha sempre avuto difficoltà alla vista, Ivan, e man mano cresce, man mano aumenta anche questo problema. Ci saranno malattie non da poco in questo senso, come vedremo. Scrive ancora nel suo diario: «Cuore di Gesù, a te consacro la mia vita. Se per la tua gloria che io soffra e venga a te, sia fatta la tua volontà e ti prego che siano con me nel tuo regno anche i miei genitori». Poi aggiunge che se gli guariranno gli occhi, potrà terminare gli esami, e se non ci saranno impedimenti esterni, si ripromette di farsi gesuita. Il giorno che scrive questo proposito, ha assistito da poco alla cerimonia della vestizione di alcune novizie benedettine, e era rimasto colpito dalla maestosa e suggestiva liturgia della vestizione. Scrive: «Occorre lasciare tutto e impegnarsi per Gesù. Che grandi sono le anime che rinunciano alla loro vita per donarla a Gesù». Ma il Signore, cari amici, non lo vorrà religioso. Non lo vorrà religioso, ma apostolo, apostolo laico che trascinerà con sé, porterà molte anime a Gesù. E tra queste chi potranno essere le prime se non quelle a lui più care? I genitori. Abbiamo già visto che non aveva ricevuto proprio dai genitori una vera e propria educazione religiosa. Erano cattolici solo formalmente e una volta cresciuto Ivan si rese conto di quanto il padre e la mamma fossero lontani da Dio e questo lo addolorava. Leggiamo nel suo diario. «Il più bel giorno della mia vita, scrive, sarà quando mio padre e mia madre diverranno buoni cristiani, quando la nostra sarà una famiglia cattolica, perché la famiglia è la cosa più santa sulla terra». Prega molto per i genitori e da Parigi scrive spesso a loro su questo argomento. Dalla corrispondenza conservata sappiamo per esempio che cerca di convincerli sulla brevità della vita e anche la necessità quindi di prepararsi il meglio possibile per l'eternità. La mamma in particolare, che era ebrea, non era ebrea, aveva la madre ebrea. Lei era nata in Ungheria col padre ungherese, la mamma ebrea. La mamma comunque era rimasta, diciamo, legata alle tradizioni ebraiche e si era convertita solo formalmente al cattolicesimo quando aveva sposato il papà di Ivan. Ma e quindi non comprende questi discorsi del figlio che oltretutto la addoloravano molto. Lei desidera per suo figlio un avvenire brillante, una buona posizione sociale, anzi cerca di persuaderlo che si è messo su una brutta via, su una falsa via. Ivan ribatte che le varie esperienze, vissute prima all'università di Vienna, poi in guerra, e soprattutto il pellegrinaggio a Lourdes, che descriveremo tra poco, lo hanno convinto pienamente della verità della fede cattolica. E ormai la sua vita muove tutta attorno a Gesù. Ma i suoi sforzi risultano inutili. Anche una volta tornato a Zagabria, la mamma non comprende la sua profonda vita religiosa e il suo impegno nelle associazioni cattoliche. Ebbene, solo dopo la morte, cari amici, i genitori si convertiranno pienamente a Dio e alla Chiesa, divenendo ferventi cattolici come Ivan aveva desiderato. Terminati comunque gli studi a Parigi, giunge nell'autunno del 1922 a Zagabria, dove si erano trasferiti anche i genitori. Qui trascorse il resto della sua vita, non molti per la verità, 6 anni, fino al 1928. Comunque un anno dopo il suo arrivo, nel 1923, si laureò in letteratura francese alla facoltà di filosofia dell'Università di Zagabria. Già da un anno aveva trovato impiego come professore di francese e tedesco nel ginnasio arcivescovile della città, impiego che mantenne fino all'ultimo. Ma la sua presenza a Zagabria non passò inosservata. Era un uomo con una fede vera, vissuta, il cui impegno apostolico non era superficiale, ma dedizione convinta senza risparmio di forze. Un uomo cosciente, che sapeva dove voleva arrivare e che si era imposto un programma da realizzare. Aveva scritto alla madre da Parigi: «La fede cattolica è la mia vocazione totale». E questa vocazione, cari amici, la realizzerà al di là di ogni aspettativa, suscitando ammirazione e anche stupore in quanto gli furono vicini. A Zagabria Ivan visse appena 6 anni, come abbiamo detto, ma furono sufficienti per lasciare un'impronta forte, indelebile nella vita cattolica del paese, perché fu una grande luce. Cosa lo distinse in quei 6 anni a Zagabria? Un amore senza limiti verso Dio e verso il prossimo. Visse eroicamente il duplice comandamento cristiano dell'amore verso Dio e verso il prossimo, giorno per giorno fino all'ultimo momento. All'ultimo momento, come vedremo, quando offrirà la sua vita a Dio per il bene della gioventù croata, alla quale lasciava come esempio la sua vita. Anche se in apparenza comunque a Zagabria la vita di Ivan non era diversa da quella dei suoi colleghi sia di lavoro che di apostolato. Eseguiva coscienziosamente il suo incarico di professore, e dedicava il tempo libero all'apostolato tra le file dei movimenti giovanili cattolici, ma come facevano anche tanti suoi colleghi. Ma in Ivan però c'era qualcosa di speciale che colpiva e che era pieno di Dio, cari amici. E questa luce coinvolgeva chiunque lo avvicinava, la trasmetteva, si capiva. E la sua vita era in effetti preghiera continua che lo spingeva a un totale abbandono a Gesù e agli interessi del suo regno. Nella preghiera attingeva la forza sia per la propria santificazione come per l'attività apostolica. Momento centrale della sua vita di preghiera era la Santa Messa con la comunione quotidiana nella Basilica del Sacro Cuore a Zagabria, dove attualmente riposa. Recitava spesso il breviario. Ogni giorno faceva la meditazione di 3/4 d'ora. Un altro punto fermo della sua vita era la recita quotidiana del Santo Rosario. Ma soprattutto, ogni volta che gli era possibile, si soffermava in adorazione davanti al tabernacolo. Dal suo arrivo a Zagabria nel 1922, il suo amore per l'Eucaristia diventa sempre più ardente e più grande. Riceve ogni giorno Gesù nel suo cuore e invita i giovani, fra i quali svolge il suo apostolato, a scoprire la bellezza di una vita eucaristica veramente e intensamente vissuta. E nei suoi scritti, ne ha fatti molti, nei suoi articoli, scriveva su molte riviste e anche giornali, esorta i lettori alla comunione frequente e a fare soprattutto dell'Eucaristia il fulcro, il centro attorno al quale far ruotare tutta la propria vita spirituale. Di questo amore per l'Eucaristia, cari amici, ce ne dà testimonianza un suo carissimo amico, Bartolo Blagojevič, amico ma era molto più piccolo rispetto ad Ivan, e scrive, testimonia anzi, Bartolo: eravamo giovinetti, dice, e Merz si trovava tra noi a Ivar, in una città. Egli ci radunava per parlarci della fede, della Chiesa e del Papa. Ancora adesso, dice Bartolo, lo vedo vivo davanti ai miei occhi. Con quanto raccoglimento stava inginocchiato davanti al tabernacolo nella cattedrale di Var, tutto immerso in adorazione. E conclude, il suo esempio mi è rimasto così impresso che appena entro in una chiesa vado subito a riverire il Santissimo Sacramento. E come accanto a Gesù troviamo, cari amici, la Vergine Maria, così nella vita spirituale di Ivan Merz Maria Santissima occupa un posto di tutto rilievo. E la sua buona e grande madre, alla quale si rivolge con fiducia chiedendole di riempirgli l'anima di bei sentimenti e nobili pensieri e di mostrargli la giusta via, anche se a lui può sembrare difficile seguirla. Così annota sul suo diario nel dicembre del 1914. Durante il periodo parigino, Ivan ha modo di recarsi in pellegrinaggio a Lourdes. Questo viaggio ebbe un'importanza fondamentale nella sua vita spirituale, perché impresse proprio a questa sua vita spirituale una forte caratterizzazione mariana. A un suo amico, a Drago Marosevic, così scrisse dopo il pellegrinaggio. «Sì», scrive, «a Lourdes ho capito che cosa è il rosario, che è divenuto il mio più caro e migliore conforto. Già prima lo recitavo con spirito di fede, ma a Lourdes ho aggiunto a questa fede un'intensità nuova». E lui recita ogni giorno il rosario e lo raccomanda agli altri. Ce ne dà un'idea, cosa dice una ragazza. Dice Ivan a questa ragazza: quando la vita le sarà pesante per disgrazie o angustie varie, reciti il rosario. Vi troverà consolazione assieme alla forza di sopportare tutto con calma e abbandono alla volontà di Dio. E questo suo amore a Maria Santissima, il nostro apostolo lo manifestava in modo aperto e profondo. Va aggiunto che non perdeva mai occasione per parlare di Maria Santissima e diffonderne il culto e anche la devozione in modo particolare a Lourdes, a Nostra Signora di Lourdes. Era per gli altri un modello di preghiera. Il suo modo di pregare era libero, spontaneo, semplice e profondo insieme. Ma, oltre ad essere un uomo di preghiera, Ivan era anche apostolo della preghiera, sia con la parola che con gli scritti. In molti articoli pubblicati in diversi giornali, esortava i lettori, dicevamo, alla vita spirituale, invitava alla preghiera tutti i suoi amici e collaboratori. Addirittura nel suo quartiere aveva organizzato un circolo di vita spirituale dove istruiva gli studenti sul modo di arrivare a un'unione più profonda con il Signore. E in un punto insisteva molto. Diceva che la preghiera non deve essere una specie di commercio con Dio, come per molti cristiani che si rivolgono a Lui solo nel bisogno. E cari amici, accanto alla devozione profonda all'Eucaristia, all'amore a Maria Santissima, un'altra caratteristica della spiritualità di Ivan è il suo amore al Papa e al Magistero. A chi un giorno gli chiese perché amasse tanto la Chiesa e il Santo Padre, Ivan rispose: «Perché vedo nella Chiesa l'immagine visibile dell'amatissimo Salvatore Dio Gesù Cristo e nel Papa, sotto forme umane, il mio Signore». E su Roma e il papato Ivan ha scritto pagine elevatissime. Dopo il suo viaggio a Roma, assieme a un centinaio di giovani che facevano parte come lui della Lega Aquilina Croata, poi spiegheremo tra un attimo che cos'è, questo in occasione dell'anno santo del 1925, così scrisse sul settimanale cattolico di Zagabria: «Il Papa, abbiamo visto la sua bianca figura, abbiamo baciato la sua santa mano. Per amore verso il Cristo visibile eravamo pronti, con la grazia del Signore, a dare la nostra vita non una, ma infinite volte». Scrive che il cardinale Franjo Seper, che lo conobbe personalmente, conobbe Ivan Merz, scrive questo cardinale: «Merz era l'uomo delle encicliche. Per lui la parola del Papa era una cosa santa. Insisteva sulla necessità di studiare le encicliche del Papa. L'amore per la Chiesa e per il Papa traspariva da ogni sua parola». E non solo. Al ritorno dal suo pellegrinaggio a Roma, Ivan si fece promotore della celebrazione di una giornata del Papa. L'arcivescovo di Zagabria approvò le iniziative estendendola a tutta l'arcidiocesi con una circolare composta dallo stesso Ivan. La celebrazione, svoltasi la prima volta nel febbraio del 1926, pochi anni dopo la morte di Ivan, aveva già le caratteristiche di una grande manifestazione che coinvolgeva tutti i cattolici croati. Ma vorrei ricollegarmi un attimo alla Lega Aquilina Croata. Vediamo dall'inizio. Già durante i suoi studi a Vienna, come a Parigi, il nostro apostolo aveva militato in diverse organizzazioni cattoliche, assimilandole quindi il lavoro, le regole e i metodi. Giunto a Zagabria, come abbiamo visto, nel 1922, entrò a far parte della Lega della Gioventù Cattolica, diventandone presidente. La Lega Aquilina, cioè le Aquile, aveva come scopo l'educazione e la formazione della gioventù sul piano religioso, intellettuale, morale e anche fisico. Il regolamento della Lega, composto in quel momento interamente da Ivan, era caratterizzato da due idee fondamentali, cioè l'amore verso la Chiesa e l'attaccamento e la fedeltà al Santo Padre. E per il movimento, per questa associazione, non si risparmiò in nessun modo, dando il meglio di se stesso fino all'ultimo giorno della sua vita. Anche se malato, spesso stanco, non mancava mai agli incontri e alle sedute dell'organizzazione, viaggiava ogni qualvolta lo richiedevano le necessità, era presidente, visitava i vari gruppi associativi, dirigeva la corrispondenza, teneva conferenze, quanto scriveva poi. E qui, proprio verso la fine del 1922, Papa Pio XI pubblicava l'enciclica sull'azione cattolica. Poi mi ricollego subito a questo fatto, cioè l'unione tra la Lega Aquilina Croata e l'azione cattolica. Quindi nel 22 Pio XI pubblicava questa enciclica sull'azione cattolica e più volte successivamente esortò clero e fedeli a realizzare il programma dell'enciclica. I vescovi si fecero eco dopo circa un anno di questo documento papale raccomandando a clero e fedeli l'attenzione verso questa enciclica del Papa. Ivan fu tra i primi, se non il primo, a rispondere con entusiasmo a questo appello. E dopo averne diffuso i principi, si decise anche a scrivere un libretto, Azione Cattolica, pubblicato a Sibenik nel 1927. Dobbiamo dire che, come abbiamo già detto, che Merz fu il primo a introdurre nella Chiesa croata proprio le idee dell'Azione Cattolica e giustamente, quindi, dicevamo, gli spetta il titolo di pioniere dell'Azione Cattolica in Croazia. Non solo, ha tradotto personalmente l'enciclica Ubi Arcano Dei, il manoscritto è conservato nel suo archivio, con la quale Pio XI aveva ufficialmente introdotto l'Azione Cattolica. Perché dicevamo dell'Azione Cattolica e dell'unione, diciamo, tra la Lega Aquilina e Azione Cattolica? Perché sappiamo che l'Azione Cattolica è, possiamo dire, legata e alla diretta dipendenza dei vescovi, no? Ma tutti questa cosa, i principi che la formavano, non erano però ben accetti allora al movimento cattolico croato. Perché? Perché era un movimento fortemente politicizzato e quasi del tutto sganciato dall'autorità dei vescovi. Quindi sotto certi aspetti questo movimento era legato alla Chiesa, sotto altri aspetti aveva assunto una determinazione esclusivamente politica. L'opera di Ivan Merz, che era, diciamo, svolta per impregnare, possiamo dire, dei principi dell'Azione Cattolica anche la Lega Giovanile Croata, venne fortemente osteggiata, anzi addirittura lui venne accusato di essere un rivoluzionario. La sua risposta fu: strana rivoluzione la mia, ripetere quello che dice il Papa. Ma comunque molto ebbe a soffrire veramente per questa sua fedeltà alle direttive del Santo Padre, ma comunque alla fine i principi dell'Azione Cattolica permearono anche la Lega Aquilina. Ivan non vede la nascita del movimento in Croazia, ma la sua operosità, cari amici, fu come il seme che doveva germogliare a suo tempo. Infatti, pochi anni dopo la sua morte, i vescovi croati istituivano nel paese l'Azione Cattolica. Durante un'altra cosa a cui Ivan era molto legato ed era molto importante per lui, era gli esercizi spirituali che cercava di ripetere spesso e i quali invitava molto spesso i giovani. Proprio durante uno di questi corsi, nel novembre del 1923, prese in esame, era arrivato il momento, insomma, di abbracciare la vita religiosa o di farsi sacerdote. Ne parlò anche con il suo direttore spirituale, padre Verbanek. Insomma, dopo una matura riflessione, dopo aver molto pregato e fattosi consigliare, capì che il Signore lo chiamava a lavorare nel mondo, con tutte le sue forze, ma soprattutto in particolare a lavorare per la gioventù croata. E proprio durante questi esercizi del 1923 troviamo sul diario delle annotazioni nelle quali accarezza l'idea di una comunità di laici che egli definiva confraternita di laici cattolici. Non aveva ancora un'idea precisa, era un primo abbozzo a quello che pensava al creare una comunità. Questo sodalizio avrebbe dovuto riunire tutti i laici impegnati nelle più disparate professioni, disposti però a spendere il loro tempo libero per Gesù e per la Chiesa. Nel frattempo cerca di entusiasmare delle idee i suoi collaboratori e molte persone, che erano pronte, dopo aver spiegato, a dare la loro adesione e impegnarsi a vivere in povertà, obbedienza e castità. Ma la sua morte improvvisa impedisce la realizzazione di questo progetto, ma l'idea non andò smarrita. Infatti un gruppo di collaboratrici di Ivan, guidate da Marika Stankovic, fondò il primo istituto secolare in Croazia, denominato Collaboratrici di Cristo Re. Ancora attualmente è vivo ed è fiorente questo istituto secolare a Zagabria. Ma torniamo al nostro santo, che si sentiva chiamato a una donazione sempre più completa e perfetta. Ormai la strada era chiara, il Signore l'aveva illuminato, gli aveva fatto capire che doveva restare nel mondo e lavorare per lui così. Abbiamo detto già che l'8 dicembre del 15 Ivan fece voto di castità fino al matrimonio. Nel 1923, quindi a 27 anni, fece il voto di castità perpetua. Rinunciando a formarsi una famiglia, donava il suo cuore a Dio mettendolo a disposizione del prossimo. E donò, cari amici, donò amore a centinaia di persone bisognose di bontà, di comprensione, di cure, di attenzioni. Poté compiere innumerevoli opere di misericordia corporali e spirituali, proprio perché il suo cuore donato a Dio era pienamente e totalmente disponibile per i fratelli. A nessuno era noto il voto di castità fatto da Ivan, né agli amici né ai più stretti collaboratori, neppure a sua madre, che d'altronde non comprendeva ancora la sua vita spirituale. Ma questa scelta non deve farci pensare che non apprezzasse i valori del matrimonio e della famiglia. Anzi, era una delle realtà a cui lui teneva di più, che incentivava di più, come vedremo ancora tra un attimo. A proposito, cari amici della famiglia, nel suo diario scrisse: «Non è nulla di più eccelso della famiglia cristiana». E nel 1924, dopo essere stato ospite della famiglia Belice a Diakovo, così scrisse nella lettera di ringraziamento: «Fra tutte le cose belle che ho visto a Diakovo, la vostra famiglia mi è piaciuta più di tutto. Mi sono trovato concretamente davanti una famiglia cristiana. Ho compreso il valore dell'insegnamento della Chiesa sulla famiglia, sulla sua priorità nella società, di cui costituisce la prima cellula, sul diritto dovere dei genitori a educare cristianamente i figli». Non solo, un suo libretto scritto da lui intitolato «Tu e lei» testimonia quanto gli stesse a cuore la preparazione dei giovani al matrimonio. Vi traccio alcuni pensieri. Scrive: «Dio ha voluto che la maggior parte degli uomini e delle donne si sposassero. La vita di famiglia è quindi per molti la fonte delle più pure e belle gioie terrene. Una gioia schietta, scrive, una gioia schietta non la troverai nelle pubbliche piazze, ai divertimenti, nelle sale da ballo, al cinema, nelle osterie, bensì la troverai nel focolare domestico. La famiglia, scrive Ivan, si fonda sull'amore verace e reciproco tra marito e moglie e sull'amore dei genitori per i figli. Però, dice, anche nel matrimonio la gioia non è completa e senza turbamenti, perché le malattie, la sofferenza e la morte la offuscano, turbando sovente lo stesso amore. L'uomo, scrive Ivan, si rende conto così che anche nel matrimonio la felicità non può essere completa. Lo sarà solamente nell'eterna unione con Dio. L'amore terreno, dice, è un'immagine dell'amore di Dio, un'immagine dell'amore di Cristo per la Santa Chiesa e una via verso l'abbraccio di Dio». E, lavorando tra i giovani, Ivan dona se stesso, dona il suo aiuto a tutti, sia al ragazzo di famiglia agiata come al povero e al bisognoso. In questo senso per lui non c'erano distinzioni, ma la sua premura per i poveri risaltava ancora più verso, in modo particolare, verso quelle persone bisognose di ogni cosa, alle quali sapeva offrire con squisita affabilità sia l'aiuto materiale sia l'aiuto spirituale, spesso accompagnando l'uno e l'altro con la sua sincera amicizia. E quanto alla sua generosità, si sa con certezza che devolveva per tutti i poveri il 10% del suo discreto stipendio di insegnante. I poveri erano i suoi amici. Basti ricordare Misco, un invalido lustrascarpe che viveva nello stesso quartiere di Ivan a Zagabria. Non solamente lo aiutava nelle sue necessità, ma sovente lo invitava a cena. Un'altra bellissima testimonianza, cari amici, ce la dà Ante Radic. Scrive, testimonia questa donna: «Ritornavo con Ivan da una visita alla sezione della Lega Aquiline di Granesina. Sul tram con noi c'era un sudicio mendicante dal quale tutti si scostavano. Merz subito gli si avvicinò e intraprese con lui un amabile discorso. Si informò del suo stato e poi passò a consigliarlo fraternamente. Tra l'altro gli raccomandò di accostarsi ai sacramenti e poi in ultimo lo invitò a casa sua fra la sorpresa e lo stupore dei viaggiatori». Era un ragazzo veramente eccezionale. Ma un altro attestato a questa premura, a questa bontà, ci viene anche dalla maestra Mira Majetic. Scrive, testimonia anche questa maestra, dice: «Un anno venne organizzato un pellegrinaggio a Lourdes. Ivan voleva a tutti i costi che io ci andassi, ma non potevo decidermi perché mi mancavano i mezzi. Venutolo a sapere, provvide a tutto lui e non solo alle spese ma anche al passaporto e ad altro. Quando volle ringraziarlo anche per l'intera giornata che aveva speso per procurarmi i documenti, mi rispose: «Il tempo che si dedica a qualcuno non è mai una perdita, ma un guadagno. Le giornate veramente perdute sono quelle durante le quali non si fa niente per gli altri». Queste parole, dice Mira, queste parole mi si impressero nel profondo dell'anima e per quel pellegrinaggio gli sarò grata per tutta la vita. Ma la sua carità abbracciava, cari amici, ogni categoria di persone, comprese le ragazze dei marciapiedi, ragazze traviate, anche delinquenti. Suor Maria Francesca, questa suora si occupava di queste ragazze, presso la polizia di Zagabria, scrive di non aver trovato neppure presso i sacerdoti, o almeno nella maggior parte di loro, la premura di Ivan verso le giovani traviate e i ragazzi sbandati. Diceva questa suora, non si scandalizzava di loro, ma del peccato. Ma arriviamo adesso anche all'ultimo periodo della sua vita. Dicevamo che sin da piccolo aveva sofferto con gli occhi per una debolezza di vista. Più tardi ebbe a soffrire anche con i denti. I genitori avevano, questo lo porterà poi alla morte, come vedremo, I genitori avevano fatto di tutto per curarlo, consultando insigni specialisti sia in patria che all'estero, ma, insomma, senza esito. Dal 1927 iniziò per lui quel calvario di malattie che l'anno successivo dovevano stroncarne la giovane vita. Tutto cominciò con un'infiammazione della laringe che si estese ai polmoni. Sopravvenne poi una pleurite. Agli inizi poi del 1928 venne diagnosticata un'infiammazione acuta dell'alveolo mascellare. Proprio sono di questo periodo le ultime pagine del suo diario, dalle quali traspare la sua grande serenità proprio nell'accettazione del dolore e più tardi anche nell'attesa della morte. Le pagine sono tutte state scritte a Zagabria. Il 21 gennaio 1928 offre le sue sofferenze a gloria del Sacratissimo Cuore di Gesù. In febbraio, siamo nel 1928, per la prima volta, alla grande gioia di recitare, pensate per lui, la gioia di recitare il Santo Rosario con la mamma e il padre. Annotò sul suo diario, domani è la festa di Nostra Signora di Lourdes, dice, questo è opera sua. Per questa gioia dovevano abbattersi tante malattie su di me, comprese l'operazione al naso alla quale forse dovrò sottopormi, se Nostra Signora non mi aiuterà altrimenti. A Zagabria scrive ancora, il 13 febbraio, una grande croce pesa su di noi. Mi è sopraggiunta un'acuta infiammazione all'alveolo mascellare. Oggi mi hanno tolto un altro dente. La mamma è in gran pena per me e prega molto. Questa sera ci siamo impegnati a recitare sempre il rosario assieme. Questa sofferenza, dice Ivan, sta operando miracoli su mia madre, che ora recita volentieri anche il rosario. Questa è una prova sperimentale di come il dolore sia il mezzo più forte per salvare e santificare le anime. E dice, beate quelle anime che accettano con gioia ogni dolore dalla mano del Signore e lo offrono in unione con Gesù per il bene della Chiesa, delle anime e della società. Ma la malattia di Ivan peggiorò sempre di più. I medici consigliarono un'operazione alla quale comunque egli acconsentì. Ma prima di recarsi in clinica fece visita al suo direttore spirituale, padre Verbanek, che lo incoraggiò e lo esortò ad abbandonarsi nelle mani di Dio. Certo, come ogni uomo, anche Ivan aveva timore dell'intervento, ma accettò come volontà di Dio questa cosa, che chiedeva a lui questa prova per la realizzazione degli ideali ai quali aveva dedicato la sua vita. E con questo pensiero e questa convinzione si congedò dal padre spirituale. Prima comunque di partire per la clinica, riordinò la sua biblioteca e la sua vasta corrispondenza. Infatti aveva il presentimento, aveva capito che era vicino alla fine, perciò voleva lasciare le sue cose in ordine. La notte precedente al ricovero lavorò fino a tarda sera. Sapete per che cosa? Lo si scoprì questo dopo la sua morte. Aveva composto, finché non gli riuscì, l'epitaffio per la sua tomba in forma di testamento. È bellissimo quello che ha scritto, ve lo leggo. Morto, questo è l'epitafio che ha scritto per se stesso. Morto nella pace della fede cattolica. La mia vita fu Cristo e la morte un guadagno. Aspetto la misericordia del Signore e l'inseparabile e pienissimo possesso del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ivan Merz, beato in refrigerio e in pace. L'anima mia raggiungerà il fine per il quale fu creata, in Cristo Dio. Da questo scritto, cari amici, traspare la serenità con cui sapeva di andare incontro alla morte. Non provava angoscia, ma serena speranza e sicura fiducia nei beni eterni promessi da Gesù. Arriviamo così alla mattina del 25 aprile del 1928, quando si recò di buon'ora per l'ultima volta nella chiesa a lui tanto cara del Sacro Cuore di Gesù, dove assistette alla Santa Messa e fece la comunione, e poi tranquillo si recò alla clinica otorinolaringoiatra di via Draskovic. Portò con sé il messalino, le meditazioni di padre Metzler, gli appunti con i propositi dei suoi ultimi esercizi spirituali e il rosario. L'indomani, il 26 aprile, venne operato dal professor Masek. La ferita non si rimarginava e Ivan perdeva sangue. Si dovette ricorrere a mezzi artificiali per fermare il sangue, ma la sua temperatura corporea si alzò e comparve il mal di testa. Passarono così alcuni giorni, ma niente faceva temere il peggio. Molti amici lo andarono a trovare in clinica e uno di questi descrive l'incontro, che ci dà un'idea della grandezza di quest'uomo. Testimonia a questo amico. Gli chiesi se aveva sofferto durante l'operazione. Mi rispose che l'anestetico non aveva avuto un effetto completo, per cui aveva sentito quando il medico operava, ma si era sforzato di pensare alle gioie del cielo. Quando gli espressi il mio timore di perderlo, mi disse, ma cos'è morire? Dopo la morte ci troveremo nell'altro mondo dove tutto sarà bello e gioioso. Dice questo suo amico, pronunciò queste parole in maniera da farmi rimanere perplesso. Scaturivano dal profondo del suo essere. Ebbe l'impressione che morire era per lui come passare da una stanza all'altra. E il tono delle sue parole rivelava la sua sicurezza di incontrarsi con colui, con Gesù, per il quale aveva speso la sua vita. Intanto la salute peggiorava. L'infiammazione dei cavi mascellari gli provocò un'infiammazione della meninge che si andò sempre più estendendo, aggravando la situazione. Riceveva intanto con grande devozione la Santa Comunione, ma quando gli era possibile. Infatti la malattia lo privò della parola e poi man mano gli paralizzò l'intero lato destro del corpo. I medici fecero di tutto per salvargli la vita, ma tutto fu inutile. La domenica del 6 maggio lo diedero ormai per spacciato, ma la sua robusta fibra resistette ancora. Nel pomeriggio di quel giorno il suo confessore, il suo direttore spirituale, padre Verbanek, gli impartì l'estrema unzione alla presenza del papà e di alcuni suoi amici. Gli chiese poi se desiderava dire ancora qualcosa. Ivan fece segno di sì con la testa perché ormai non poteva più parlare, ma il confessore, che capiva le sue intenzioni, gli chiese «Vuoi offrire la tua vita per la Lega Aquilina Croata, non è vero?» Gli occhi di Ivan si illuminarono e con il capo fece segno di sì. Voleva, cari amici, offrire la sua vita per tutti i suoi giovani, affinché nessuno di loro si perdesse, e perché questo movimento crescesse sempre in unione al Papa e alla Chiesa. E la sera dello stesso giorno riceveva il telegramma con la benedizione di Papa Pio XI. Per lui, per Ivan, che tanto amava il Papa e per il quale aveva tanto lavorato, fu un grandissimo conforto. Uno degli amici del nostro grande apostolo, il dottor Kienwald, che negli ultimi giorni gli fu sempre vicino, ci ha lasciato questa testimonianza sulle sue ultime ore di vita. Scrive, Ivan era cosciente e osservava tutto, ma poteva reagire soltanto chinando la testa. Più tardi poteva solo far cenno con gli occhi. Spesso lo tormentavano forti spasimi che gli facevano perdere la conoscenza. Ritornato in sé, riconosceva di nuovo quelli che gli stavano attorno. Ogni tanto prendeva la mano del papà con la sua sinistra, se la stringeva e se la portava alla guancia. Spesso, dice questo suo amico, gli davamo a baciare anche la croce. Le ultime due notti, continua il dottor Kienwald, vegliò con lui una suora. Durante il giorno gli restava vicino un sacerdote. L'ultima notte vegliarono a turno Monsignor Beluan, padre Vlavov e padre Pavelic. La mattina del 10 maggio era il suo capezzale Monsignor Beluan, mentre noi pregavamo con le lacrime agli occhi e con voce tremante. Erano presenti i medici, le suore e il papà di Ivan. E continua. Il respiro di Ivan diventava sempre più lento, il polso sempre più debole. Ma gli era quieto. A un tratto spalancò gli occhi, dai quali scese una lacrima. Fissò lo sguardo in un punto lontano. Tranquillo, fiducioso, sicuro. Ancora un respiro, ancora un piccolo appena percettibile movimento, e Ivan Merz, dice questo suo amico, rese la sua nobile anima all'Altissimo. Noi ci inginocchiammo. La notizia della morte si propagò con la rapidità del fulmine. Poco tempo dopo cominciò a suonare la campana della cattedrale di Zagabria, annunciando al paese che uno dei suoi figli migliori aveva lasciato questa terra. Ivan aveva 31 anni. Ma come leggiamo nel Vangelo, cari amici, la lucerna accesa va posta sul lucerniere perché faccia luce. Già in vita Ivan era ritenuto in concetto di santità. Dopo la sua morte, la fama di santità si divulgò rapidamente con la conoscenza anche dei particolari della sua vita, e i fedeli cominciarono a rivolgersi a lui per ottenere grazie e favori, restando esauditi. E i casi di guarigioni non si fecero attendere. Ne riferiamo uno tra i tanti, forse uno tra i più importanti, che ha come protagonista Anika Ercegovi. All'età di 19 anni, Anika, Annetta, si ammalò di TBC polmonare, di artrite e di violento reuma in tutto il corpo. Ebbene, per 6 anni si cercò di curarla, ma senza risultati. Venne visitata da molti medici, prese molte medicine, ma non giovarono a nulla. Nel 1930 si recò sulla tomba di Ivan e lo pregò ardentemente di aiutarla. Ebbene, la sua preghiera fu esaudita. Tornò a casa perfettamente guarita e da quel giorno non è stata più malata, non solo, ma non ha mai preso neppure una medicina. Questa naturalmente è una guarigione ufficiale accertata. Non solo, Annette in tutti questi anni ha eseguito lavori in casa e in campagna per molte ore al giorno, ma oltre a questo caso, molti altri ne sono stati segnalati. Grazie di qualsiasi genere, grazie che questo grande apostolo della gioventù ottiene da Gesù e dispensa i fratelli che le chiedono.